già sapevo che tua mamma quel che fa. E non lo sai che cosa vede un uomo che ci crede nell'amore delle cose, nelle vene della realtà. Mamma mia, tua mamma non è mia zia.